Sera dal cisti fornaio se muoso crema quei frati e manna diranno pancia mia fatica panna in altro sì nel testamento ha lasciato cosa d'un convento ma che chi lo dice lo dico la signa lo dico la signa lo dico la signa oh Simone parla tu sei il più vecchio tu sei anche stato modesta fucecchio Che ne pensi? Che ne pensi? Se il testamento è in mano d'un notaio, chi lo sa, forse un guaio, se però ce l'avesse lasciato in questa stanza, Guaio per frati, ma per noi speranza. Guaio per frati, ma per noi speranza. Oh, Lauretta, amore mio, speriamo nel testamento dello zio. No, non è. Thank you. stato bene, bene. Se tra poco si fosse tutti ricchi, in un giorno di festa come questo, mi daresti il consenso di sposare la Lauretta figliola dello Schicchi? Mi sembrerà più dolce il mio relaggio, potrei sposarla perché mi mangia. Ma sì, ma sì, ma sì, c'è tempo a riparlarne. Potrei sposarla per Calen di maggio. Vi presto il testamento. Lo vedi che si stacco le spine sotto i piedi? Zia, se tutto andrà come si spera, sposa chi vuoi, sia pure la versiera. Ah, lo zio mi voleva tanto bene, ma avrà lasciato con tasche piene. Corri da Gianni Schicchi, digli che venga qui con la Lauretta, c'è Nuccio di Poso che l'aspetta. A te due popolini, comprati confortini. Ai miei cugini, Zita e Simone. Povero Poso, povero Poso, tutta la cena tu devi avere. Insino in fondo si deve struggere, sì. Godi, godi, povero Poso. Povero Poso, se m'avesse lasciato questa casa, Murini di signa, signa. Poi la muccia, se la scopo le murini di signa. I murini di signa, zitti! E ho porto. Vedremo i frati ingrassare alla barba dei donati. Tutti quei bei fiorini condonati, finire nel piccolo che dei frati, arrivare tutti noi in una sostanza, e i frati falguacciarne l'abbondanza. Io dovrò misurarmi bene a signa, e i frati beberanno il vigno, il vigno. Si faranno slargare spesso la cappa, e schiatteretti di pie, che loro bomba. La mia felicità salvata dall'opera di Santa Repata. E le ripensi dei conventi allegri, capo che ingrassate! Campani! E gli avessi! Galletti! Galletti! Galletti! Cassoneri! E in quel passino siete passati! E in quel passino siete passati! Eccola! Eccola! Che è stato podestà fucecchio. C'è una persona sola che ci può consigliare, forse salvare. Chi? Gianni Schicchi. Di Gianni Schicchi della figliuola non può sentirne parlar mai più. E intendi bene? Chi l'ha chiamato? Io l'ho mandato perché speravo. È proprio il momento da me. Ma qua la si sta, lì vuole tornare. Vieni, sono padre. Condonati sposare la figlia Don Villano. Nasceso a Firenze dal contado. Imparentarsi con la gente nuova. Io non voglio credere, non voglio! Avete torto, fine, astuto, ogni malizia di leggi e codici, conosce, sa, motteggiatore, beffeggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara, e Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi l'illuminano di riso, lo strano viso ombreggiato da quel suo gran nasone che pare un torracchione. Per così via dal contado. Ebbene, che vuol dire? Basta con questo grette piccine. Firenze come un albero fiorito che in piazza dei signori è pronto e pronto, ma le radici forse non mi apportano dalle compagne limpide e feconde. E Firenze germoglia dalle stelle. Salve un paragi, salve Pariste! L'arno prima di correre alla foce cantava cento piazza Santa Croce e il suo canto è si dolce, si sonoro che a lui Sancesi ruscia il letto in coro. Così scendan vidotti in arti e scienze a far più ricca splendida Firenze e di Valdelsa giù dalle castelle canta con gli occhi gretti e coi ripicchi. Viva la gente nova e Gianni Schicchi! Perdita. Ne ho l'anima commossa. E la perdita è stata proprio grossa. Son cose, ma come si fa? In questo mondo una cosa si perde, una si trova. Perde Buoso, ma c'è l'eredità. Sicuro ai frati, diseredati. Diseredati, sì, diseredati. E per colpa la terra, pigliate la figliuola, levatevi di torno. Dio non dormi un nipote, ma una senza Io non vado il coglio, brava la vecchia, brava, per la dote sacrifichi mia figlia e tuo nipote. Brava la vecchia, brava, vecchia taglia spirina, sordi la spirina greppa. Rimanete un momento, invece di sbraitare, dategli il testamento, cercate di salvarci, a voi non può mancare un'idea portentosa, una trovata, un rimedio, un ripiego, un espediente. A pro di quella gente, niente, niente, niente! Oh, testamento. Niente da fare. Addio, speranza bella, dolce miraggio, non ci potrem sposare per il canon di maggio. Di rimpetto. Donne, rifate il letto. Ma... zitte, obbedite. Ditegli qualche cosa, che Buoso è migliorato e che riposa. L'attermesso. Buongiorno, maestro Silvio. Maestro, ecco, voce. Vittoria! A vittoria, vittoria! Ma non capite? No! Ah, che zoccoli! Si corre dal notaio, messer notaio, presto! Via da Boso Donati c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene, presto messere, se no e guardi. Ed il notaio viene. Entra, la stanza è semioscura. Dentro il letto intravede di Boso la figura. In te sta la cappellina, al viso la pezzolina. Tra cappellina e pezzolina, un naso che par quello di Boso, e invece è il mio, perché al posto di Boso ci sono io. Io lo schicchi con altra voce, forma falsifico in me, e muoto donati, testando e dando il testamento normo, o gente, questa matta bizzarria, che mi zampilla nella fantasia, e tale la sfida. Babbo, si può sapere? Non c'è più, non vuole più minuzie. ora dagli da bere. Hai preso un accidente? Allora, patentato! Del signor capitano! Requiescati in pace! Per la mula, la casa, i mulini, propongo di rimetterci alla giustizia, all'onestà di Schicchi. Rimettiamoci a Schicchi! Come volete, datemi panni per vestirmi. Presto, presto. Ecco la cappella. Se mi lasci la mula, questa casa e mulini, Sisilia ti do 30 fiorini. Va bene. Se lasciami la casa e la mula e mulini, ti do 100 fiorini. Sta bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula e mulini di Sisilia, ti gonfio di quattrini. Sta bene. Addio cielo divino. notaro. Messer Vuoso, buongiorno. Oh, siete qui. Grazie, Messer Amanzio. O Pinellino Calciolaio, grazie. Grazie, Guccio Tintore. Troppo buoni, troppo buoni di venirne a servir da testimoni. Povero Buoso, io l'ho sempre calzato, vederlo in quello stato vien da piangere. Il testamento avrei voluto scriverlo con la scrittura mia. Me l'impedisce la paralisia, perciò voglio un notaro solenne e leale. Oh, Messer Buoso, grazie. Dunque tu soffri di paralisia. Poveretto, basta, i testi videro, testes viderum. Possiamo incominciare, ma i parenti che restino prespinti. Dunque incomincio. In dei nomini anno dei nostri Gesù Cristi, a te un salutitera incarnazione, millesimo, ducentesimo, nonagesimo, nono, die prima settembre, indizione undecima, ego notaro Amanzio di Nicolao, civis Florenze per voluntate, quosi donati, scribo, hoc testamentum. Annullans, revocans, ed irritans, omne aliud testamentum. Che previdenza! Che previdenza! Un preambolo, dimmi, i funerali, il più tardi possibile, li vuoi ricchi, fastosi, dispendiosi? No, no, no. Pochi quattrini non si spendano più di due fiorini. Oh, che modestia! Oh, che modestia! Oh, che amico! Che cuore torna onore! Lascio ai frati minori ed all'opera di santa reparata 5 livre. Bravo, bravo, bisogna sempre pensare alla beneficenza. Non ti sembra un po' poco chi crepa e lascia molto all'incombrite ai frati? Fa dire a chi rimane, eran quattrini rubati. Che massime, che mente, che saggezza, che lucidezza. I fiorini incontanti li lascio in parte guardi fra i parenti. Grazie, zio! Grazie, cugino! Lascio a Simone i beni di Fucecchio. Grazie! La zia dei poteri di Filine. Grazie, grazie! Abbetto i canti di Fucecchio. parlare. Grazie, cognato. Annelletta Gherardo, i vedi tempoli. Grazie, grazie. Alle ciste da Marco, i beni a Quintole. Ora siamo alla mula, la casa da mulini. Lascio la mula, quella che costa 300 fiorini, che è la migliore mula di Toscana, è il mio devoto amico Gianni Chicchi. Come, come, come? Gli schicchi. Ma cosa vuoi che mi porti a Gianni Schicchi di quella mola? Niente, buono timone, lo so io quel che vuole Gianni Schicchi. Furfante, furfante, furfante. Lascio la casa di Firenze al mio caro devoto affezionato amico Gianni Chicchi. Addio Firenze, addio cielo divino, io ti aiuto. Del testato la volontà. Messer Amanzio, io lascio a chi mi pare, ho in mente un testamento e sarà quello. Se gridano, sto calmo e canterello. Ma che uomo! Che uomo! E i mulini di Signa. I mulini di Signa! I mulini di Signa! Addio Firenze! Li lascio al caro! Addio cielo divino! Affezionato amico Gianni Chicchi! Oh. E ti saluto! Questo uomo carino, la, ecco fatto! Dica, di vostra borsa date venti fiorini ai testimoni e 100 al buon notaio. Messer Buoso, grazie! Niente saluti! Andate, andate, siamo forti. Via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via,